Capitolo terzo. I blocchi. Pim. Sto pensando a qualcosa che avete detto nella conversazione sul potere creativo. Queste le vostre parole, l'uso concreto e reale del potere creativo su Gaia è completamente relazionato all'ammontare di blocchi che avete accumulato negli ora passati. Avete poi detto, questa volta sono parole mie, che i blocchi si formano specialmente quando siamo bambini perché crediamo a pensieri e convinzioni che altri, genitori, insegnanti, ci trasmettono. Se ho capito bene, per poter usare il nostro potere creativo il lavoro da fare è quello di eliminare i blocchi che abbiamo accumulato, specialmente da piccoli. Potete dirci qualcosa di più su questi blocchi? Perché mai accumuliamo blocchi che ci privano del nostro potere creativo? Guide e maestri. Perché siamo creatori e amiamo creare. Non è possibile creare ed espandersi da un punto di perfezione. Pim. Non capisco perché. Guide e maestri. La perfezione è statica. Cosa c'è da migliorare in qualcosa di perfetto? La scelta di Gaia per la crescita spirituale. Per la vostra crescita spirituale, per espandervi un po' di più in amore e consapevolezza, avete scelto di incarnarvi su Gaia. Gaia è stata pensata come un territorio di completo libero arbitrio. C'è un po' di tutto. Note di ogni genere. Esperienze di ogni genere. Dal punto di vista dell'uno, dal punto di vista dell'io interiore, dal punto di vista della nota originaria universale, non c'è giudizio, non c'è punizione, non c'è limite. Prima di incarnarvi parzialmente su questo pianeta, sapevate esattamente le regole del gioco. Era chiaro che non sareste giunti in un paradiso terrestre. Non è lo scopo di Gaia essere un paradiso terrestre. Sapevate che le note sarebbero state di ogni genere, e che coloro che vi avrebbero accolto avrebbero contenuto in loro un misto di suoni dovuti alla loro stessa esposizione sul pianeta. Sapevate che quella miscela di suoni avrebbe creato in voi un certo bagaglio, e che proprio quel bagaglio vi avrebbe ispirato nella vostra crescita ed espansione. Pim. Mi chiedo perché scegliere proprio Gaia per crescere ed espanderci. Me lo chiedo perché so che vivere su Gaia a volte è bellissimo, ma significa anche fare esperienza di tante cose davvero molto tristi e dolorose. Guide e maestri. Non c'è possibilità di arrivare a comprendere in profondità attraverso il vostro pensiero razionale e lineare. Questo è il territorio dell'intuizione universale, del ricordo della vostra vera natura. Perché scegliere proprio Gaia? Bisogna tornare sempre al punto di vista della vostra nota originaria, che non vede ingiustizie, drammi, depressione, eccetera. La vostra nota originaria vede la possibilità del miglioramento, della risposta positiva, dell'espansione verso qualcosa di meglio. La vostra nota originaria sa di essere la sorgente, e sa che non c'è niente che non possa co-creare. La vostra anima guarda ai genitori che vi riempiono la testa con pensieri non armonizzati con la vostra nota originaria come un'opportunità. L'opportunità di scegliere tra paura o amore. La vostra anima sceglie solo amore perché conosce e vede solo amore. Vede il dono in ciò che l'apparente negatività del genitore vi sta portando. Ricorda di essersi scelto quei genitori perché musicalmente gli avrebbero offerto esattamente il territorio necessario alla creazione della sinfonia che voleva dirigere nelle sue vesti di creatore. Pim. Mi sembra difficile che un bambino possa capire tutto questo. Guide e maestri. La parte incarnata nelle vesti umane di bambino, e quindi sottoposta all'oblio, non è mai lasciata da sola. È in continuo contatto con la sua anima e con l'energia di tutto ciò che è. È un dato di fatto che la famiglia, la società in generale, il posto dove si decide di nascere, il linguaggio, tutti i dettagli di questa dimensione, saranno i fattori nella costruzione della vostra personalità, della vostra identità fisica. È la relazione tra questa identità fisica e la vostra anima che farà scaturire infiniti desideri di miglioramento e di espansione. Pim. Vorrei capire meglio che funzione hanno i blocchi, e la loro relazione con la nostra scelta di fare esperienza su Gaia per crescere ed espanderci. Guide e maestri. I blocchi, o le convinzioni che sono in disarmonia con la vostra nota originaria, vi danno la possibilità di creare in allineamento con il vostro io interiore. Vi danno la possibilità di capire sia ciò che volete che ciò che non volete. Senza il bianco non potreste identificare il nero, senza l'alto non potreste relazionarvi col basso. Senza la sensazione di malessere non potreste individuare, riconoscere, la sensazione di benessere. Il malessere che avvertite è un segnale, un richiamo, un campanello di allarme, che vi invita a esplorare una direzione diversa, ad ascoltare la vostra voce al di sopra di tutte le altre voci, a guardare in direzione del desiderio di miglioramento che nasce da ciò che non vi piace. Ognuno di questi desideri contiene la sua risposta, e la potenzialità di essere manifestato su Gaia attraverso la vostra risonanza armoniosa con la vostra nota originaria, con la vostra anima. La dualità di Gaia, problema e soluzione. La ragione per cui i problemi esistono è per mettere in evidenza le soluzioni che appaiono allo stesso tempo. La soluzione non può esistere senza il problema, e il problema non esiste senza la soluzione. Ma le note del problema e della soluzione sono completamente diverse. Continuare a fissarsi sul problema non farà altro che aumentare quel tipo di disarmonia. Guardare alla soluzione non farà altro che amplificare la risonanza armonica con il nostro stato naturale di benessere, con la nostra nota originaria. Pim. Ma come faccio a guardare alla soluzione quando ho il problema sotto gli occhi, manifestato nella mia vita pratica? Guide e maestri. La risposta sta nel fatto che tu sei il creatore sia del problema che della soluzione. Il potere è tutto in te. Non sei nelle mani di nessuno. L'armonizzazione di anima ed ego determina la qualità della vita su Gaia. Ciò che conta è l'armonizzazione, l'accordo musicale, tra la tua anima e te che sei incarnato qui e ora in un corpo fisico. L'incontro, l'unificazione di queste due parti di te, determina la qualità della tua esperienza fisica. Sei un creatore potentissimo che sta facendo esperienza del suo potere creativo. Sei sempre stato consapevole della natura di Gaia, della miscela di suoni e note di chi era sceso prima di te, e della miscela di suoni e note alle quali ti saresti sottoposto durante la tua esperienza terrena. Sei sempre stato consapevole della tua divinità e dell'unione con tutto ciò che è. Sei sempre stato consapevole che non saresti mai stato lasciato da solo, in quanto sei uno, parte dell'uno, indivisibile, inseparabile, e che tutte le prove che avresti incontrato sarebbero diventate occasioni per crescere. Pim. Forse comincio ad intuire ciò che state dicendo. Ora le tessere del mosaico sono aumentate, ma mi è ancora difficile dare un senso a tutto questo. Guide e maestri. Dal tuo punto di vista umano non è facile. Perché essere qui e sottopormi a tante situazioni che non mi piacciono? Non avrei mai scelto questo o quello per me stesso. Ma questo è il punto di vista umano, che crede di essere separato dall'uno. Quando ricordate che siete la sorgente, che siete Dio, che avete il potere assoluto di vivere la vita che desiderate, e che vi siete incarnati per creare e crescere, e che creazione e crescita possono avvenire solo in un territorio dove le varianti sono tante, dove la scelta è costante, dove il libero arbitrio è assoluto, dove attraverso l'osservazione di qualcosa che non vi piace nasce il desiderio per qualcosa di diverso, di migliore, e che quel desiderio è completamente manifestabile attraverso il vostro potere di co-creatori, quando realizzate, ricordate tutto questo, allora la vostra esperienza fisica diventa piena di significato, di gioia, di felicità. Pim. Ciò che dite mi fa venire in mente che i momenti più difficili della mia vita sono stati anche quelli in cui ho imparato di più. Che la luce arriva dopo che attraversiamo il buio più profondo. Guide e maestri. È così. I vostri desideri più grandi sono nati probabilmente dalla vostra esposizione a situazioni che non erano piacevoli. Quella esperienza non piacevole vi ha fatto vedere chiaramente cosa è che non volevate, e ha messo in risalto ciò che volevate. Proprio lì e in quel momento è nato un desiderio nuovo. Creazione, creazione, creazione. Creiamo in continuazione, che ne siamo consapevoli oppure no. Questa è la natura di tutto ciò che è. Siamo i compositori della nostra sinfonia più profonda. Ricordate la nota originaria e cominciate a creare esperienze di vita che sono in accordo con essa. Tutto l'universo è con voi in ogni ora. L'energia del tutto è con voi, in voi, di voi. Non siete mai soli o separati. Ricordate, voi siete colui che dona e colui che riceve. Voi siete il divino. C'è solo amore, assistenza, gioia. Conversazione sui blocchi. Pim. Ciò che ci avete appena detto ci fa vedere tutto sotto una diversa prospettiva. In questa prospettiva non solo ciò che provoca dolore, malattie, fame, guerre, eccetera, ha un senso, ma diventa addirittura necessario perché la dualità è necessaria, e perché senza ciò che non ci piace, senza ciò che ci fa orrore, non nascerebbe in noi il desiderio di cambiare la realtà e di armonizzarci con quello che voi chiamate la nostra nota originaria, la nostra anima, che vibra solo di amore e gioia. Tale livello di armonia interiore poi cambia le nostre esperienze, siamo creatori, come dite voi, e quindi non solo finalmente viviamo in un mondo migliore, ma cresciamo anche, e crescita è ciò che vogliamo, perché è la nostra natura. Devo ammettere che l'idea di essere io in controllo degli eventi, e di poter muovere le cose in direzione dei miei desideri è a dir poco affascinante. Ma allo stesso tempo c'è qualcosa che la mia mente razionale ha un'enorme difficoltà a capire. Queste le sue domande. Perché mai quello che ci avete appena detto sul nostro poter creare la realtà, e sulla ragione di tanto malessere su Gaia, non è stato detto a tutti, e in tutte le lingue, e prima, e in modo forte e chiaro? Non sto dicendo che dovevano essere eliminate le prove, se è vero che sono necessarie, né sto dicendo di eliminare la dualità, il libero arbitrio, o l'oblio, senza i quali non ci sarebbe ragione di essere su Gaia. Ma mi chiedo, e vi chiedo, perché non dire chiaramente a tutti quali sono le regole del gioco? Avete detto che se ci armonizziamo interiormente con la nostra nota originaria, con la nostra anima, creiamo una realtà in linea con i nostri desideri, di pace, di gioia, di abbondanza, e che invece se risuoniamo con una nota di paura, i dolori, la scarsità, le malattie, le guerre, rimangono e aumentano. Conoscere le regole del gioco e sapere in anticipo e chiaramente ciò che ci avete detto, non elimina le prove, ma rende almeno il gioco più giusto. Almeno è quello che la mia mente razionale pensa. Quale è la ragione di tutto questo? Il libero arbitrio. Guide e maestri. Il vostro libero arbitrio è la ragione principale. Tutto ciò che c'era da dire è stato detto prima della vostra incarnazione. Questo è ciò che la mente razionale, l'ego, non riesce a cogliere. Non siete separati dalla vostra anima, dalla vostra nota originaria, e la vostra anima contiene tutte le risposte. Vi guida in continuazione, sa dove andare in ogni istante. Non siete mai soli. L'oblio esiste, ma non crea un'impossibilità nel vedere e nel sentire. Altrimenti non vi sentireste mai male, perdonateci la parola. Quando vi sentite male è l'anima che vi parla. Quel male è la vostra anima, che vi dice, fermati adesso e riarmonizzati con me, sono qui, ora, ti sto parlando chiaramente, sono qui. Il vostro libero arbitrio, che è sacro, non verrà mai spinto in una direzione o in un'altra. È per questo che, a meno che non ci sia una chiamata, una richiesta di informazioni, di colloqui, di conversazioni, come in questo caso, noi non ci imponiamo. Siamo sempre qui, e infatti non c'è un qui e lì, c'è solo un qui e ora. La risposta arriva a chi chiede. Noi ci siamo sempre stati, l'universo intero, la vostra anima, le guide nel non fisico. Se c'è la richiesta, la risposta giunge. In questo ora la grande maggioranza di Gaia sta chiedendo, e le risposte stanno arrivando da ogni direzione. La richiesta parte da voi perché siete liberi, liberi di essere, di fare, e soprattutto di evolvervi ed espandervi con i tempi e le modalità scelte da voi, non da noi. Se andate con il vostro pensiero agli inizi dei tempi dell'uomo, potete vedere che c'è sempre stata a disposizione guida e direzione. All'inizio attraverso un'armonia completa con la natura, espressione dell'uno, e poi via via attraverso il pensiero di filosofi che hanno cercato di trasmettere ciò che avevano ricevuto a coloro che ne erano interessati. Chi ha chiesto ha sempre ricevuto, sempre e comunque. Demoniaco. Pim. La mia mente razionale si chiede, ed io chiedo a voi, non è per caso che il gioco ha preso la mano del Creatore, voi, io, Dio, l'uno di cui tutti siamo parte? Per far nascere il desiderio di cambiare la realtà, per giocare col potere creativo, per conoscerci, e per crescere, c'era proprio bisogno di arrivare alla fame che fa strage di bambini innocenti, alle guerre senza senso, alla violenza sui deboli, all'ingiustizia e alla prepotenza che dominano gran parte di Gaia, ai tanti orrori come l'Olocausto? Capisco il libero arbitrio, ma alla mente razionale sembra che a giocare all'espansione non sia più il creatore dell'amore incondizionato, ma un essere demoniaco che ama il male. Esiste un essere demoniaco? Guide e maestri. Non esiste nessun essere demoniaco. Esistono unicamente livelli di separazione dall'uno, e la conseguente disarmonia che si crea. La tua visione, o per meglio dire la visione della tua mente razionale, si basa sugli insegnamenti che hai ricevuto crescendo. Non esiste il demoniaco, esiste solo l'uno, e finché questo non diventerà una certezza al di là di ogni dubbio, ci continueranno ad essere guerre, stragi di innocenti, e fame. Tutto ciò che osservate, è espressione dell'armonizzazione, interiore o meno, con un'unica sorgente di amore incondizionato che è in tutto, in chi viene torturato e in chi tortura, in chi uccide e in chi viene ucciso, in chi è povero e malato, e in chi ruba i poveri e malati. Non c'è possibilità che la tua mente razionale possa mai, ripetiamo mai, comprendere. Ti devi rivolgere alla tua nota originaria, al divino in te. Il tuo livello di coscienza e consapevolezza ha una nota diversa da quella di chi uccide o tortura. Per la tua mente razionale è impossibile comprendere da un punto di amore incondizionato. La tua mente razionale trova che tutto questo sia assolutamente da condannare e terribile, pieno di sofferenza e ingiustizia. La tua nota originaria, la tua anima, ama incondizionatamente chi uccide, chi tortura, chi ruba, chi imbroglia. La tua nota originaria ama l'ombra e la luce nello stesso modo. Non giudica mai. Apri il cuore, fratello, apri il cuore. Ripetiamo nuovamente, la tua nota originaria comprende che chi uccide e tortura sta facendo del suo meglio, basato sul livello di consapevolezza che ha a sua disposizione in quell'ora. Prova a ricordare una circostanza della tua esperienza terrena nella quale hai agito in modo disarmonico. Probabilmente ti sei detto: ma cosa stavo pensando? Non riesco a credere di aver potuto fare o dire questo o quello. Non ero io. Ero fuori di me, o qualcosa di simile. Naturalmente ci sono diversi livelli di disarmonia, dal dire una cosa malamente al torturare e uccidere. Ma alla base c'è la stessa causa, in quell'ora particolare, che può estendersi da pochi minuti ad un'intera esperienza di incarnazione sul pianeta, ciò che detta l'azione è il livello di coscienza a disposizione di chi compie l'azione stessa. Pim. Capisco che i livelli di coscienza, come li chiamate voi, possano essere molto diversi, ma questo non mi aiuta a capire e perdonare chi compie azioni terribili, e gli esempi su Gaia non mancano certamente. Guide e maestri. Ci rendiamo conto che non sia facile comprendere, ed è per questo che il primo passo è sempre e comunque diretto a voi stessi, perdonarvi per le vostre azioni disarmoniche, con la consapevolezza che ciò che avete fatto in disarmonia con il vostro cuore, era il meglio che potevate fare in quell'ora. Se riuscite a perdonare voi stessi, sarà molto meno arduo guardare all'esterno con quella stessa percezione d'amore. La vostra nota originaria comprende la natura di questa dimensione, non vede peccatori, non vede demoniaco, vede unicamente luce e amore, e sa, senza ombra di dubbio, che ogni livello di coscienza si evolverà in direzione del proprio cuore. Non neghiamo che sia molto intenso essere fisicamente sul pianeta, ma ancora una volta desideriamo ricordarvi che eravate completamente consapevoli della natura di questa creazione prima di scendere. Eravate consapevoli del fatto che i suoni e le note individuali, e le conseguenti esperienze terrene, sarebbero state infinite, ma che alla base di tutto ci sarebbe stata unicamente una base di amore incondizionato. Desideriamo fare una precisazione importante: è chiaro che l'osservazione della sofferenza altrui risvegli in voi sensazioni di tristezza, incredulità, a volte disperazione, e conseguentemente il desiderio di agire, di aiutare, di cambiare le cose. È chiaro che l'intensità di certe situazioni vi faccia scendere lacrime, questa è la vostra umanità, il vostro cuore che risponde. È un tesoro immenso. Il vostro cuore non potrebbe sentire ed espandersi senza l'esposizione immensa che Gaia offre. La vostra nota originaria riconosce il servizio del tutto. Del bianco e del nero, dell'ombra e della luce. Non importa quanto l'ombra sia scura e la luce sia brillante. È dall'ombra più scura che nasce la luce più intensa. Chi riesce a perdonare l'atto più crudele è colui che sta espandendo la sua capacità di amare oltre i limiti presenti. Senza quell'atto e, aprite il vostro cuore, aprite il vostro cuore, e senza il servizio del carnefice e della vittima, quell'espansione non sarebbe potuta avvenire. Vogliamo con questo dire che ci dobbiamo esporre a certe esperienze? Assolutamente no. Di nuovo, libero arbitrio. Ma non possiamo, dal punto di vista della nostra nota originaria e dell'amore incondizionato, giudicare e condannare chi ha deciso consciamente o inconsciamente di fare esperienza di altro. L'amore incondizionato non condanna e non giudica, ama. Stiamo forse dicendo che dovete essere tutti in risonanza con quella nota? No. Siete tutti dove siete, a livello di consapevolezza e nessuno, è mai considerato più bravo o meno bravo, innocente o colpevole. Siamo uno. Togliersi la vita. Pim. Capisco che le difficoltà di Gaia fanno parte della dualità necessaria per la nostra crescita spirituale, ma queste difficoltà a volte sono così intense che chi è chiamato ad affrontarle non ce la fa. C'è chi preferisce togliersi la vita e tornare al cielo quando il dolore, l'umiliazione, o la malattia, raggiungono livelli insostenibili per quella persona. Allora la mia mente razionale si chiede, ed io chiedo a voi. Il suicidio è parte delle esperienze di chi vive su Gaia. Qual è la vostra visione di questo evento? Guide e maestri. Prima di rispondere alla tua domanda vogliamo premettere, e sottolineare, che la vita su Gaia, con i suoi alti e i suoi bassi, è un dono meraviglioso, ed è la scelta che abbiamo fatto prima di incarnarci per crescere ed espanderci. Proprio per questo, quando siamo incarnati sul pianeta la tendenza profonda della nota originaria è di mantenere la vita, di ristabilire l'equilibrio, l'armonia interiore, la risonanza con il cuore. Fino all'ultimo istante il richiamo verso il benessere e la nostra natura di creatori è incessante e continuato. Ecco ora la nostra risposta. Il suicidio è parte del libero arbitrio, e come qualunque altra cosa in tutta la creazione, non giudicato. Questo è un universo basato sull'amore incondizionato, e come abbiamo già detto, l'amore incondizionato ama. Crediamo sia necessario far sapere che il ritorno all'uno è privo di qualsiasi giudizio o punizione per chi non riesce ad ascoltare il richiamo pieno d'amore della propria nota originaria, e vede come unica soluzione alla sua sofferenza interiore l'abbandono del corpo fisico. L'uno è amore puro, e il ritorno alla sua unità è sempre e comunque vissuto con gioia, e con la consapevolezza di essere cresciuti spiritualmente. Ricordate che quando siamo su Gaia facciamo sempre e comunque del nostro meglio. In alcuni casi il senso di separazione, completa solitudine, dalla sorgente diventa insopportabile al punto tale da far percepire l'uscita dal pianeta come l'unica soluzione possibile. Ricordate che la nostra nota originaria, il divino in noi, la sorgente in noi, non abbandonerà la speranza di un cambiamento di decisione fino al nostro ultimo respiro. Ma se la decisione sarà l'uscita dal pianeta, la nota originaria non esiterà a riunirsi alla nostra parte in uscita con grande gratitudine per essersi esposta al mondo di Gaia, e per la grande crescita che ne è derivata. Pim. Dite che la nota originaria non abbandonerà la speranza di un cambiamento di decisione, fino all'ultimo respiro. Mi chiedo, la nota originaria, come la chiamate voi, non potrebbe fare qualcosa di più che sperare? Guide e maestri. Probabilmente speranza non è la parola adatta. Ciò che intendiamo comunicare è che chi pensa al suicidio è assistito costantemente da ciò che potrebbe essere definito come un esercito di esseri di luce, il cui desiderio più grande è di dare sollievo, di facilitare un cambio di direzione, di riportare la persona in questione, anche se per un solo istante, a contatto con la sua natura di amore incondizionato. Vedete, chi pensa al suicidio, ha l'idea di essere completamente solo, di essere separato dalla sorgente del tutto. Ma tale percezione non è reale, perché non è possibile separarsi dalla nostra vera natura, noi siamo la sorgente. Nella mente di chi pensa al suicidio, pensieri e credo basati su questo senso di separazione illusoria, ma reale per la mente, creano una disperazione veramente profonda. Anche uno spiraglio infinitesimale nel ricordo della propria natura divina, può essere sufficiente a ricreare il desiderio di restare sul pianeta. In tutto ciò il libero arbitrio è intoccabile. Non esiste giudizio, non esiste condanna, non esiste peccato, ma semplicemente amore infinito. Pim. Sto pensando a cosa significa la scelta del suicidio per chi ama profondamente chi decide di togliersi la vita, genitori, fratelli e sorelle, compagni. Guide e maestri. Coloro che amano colui che si suicida sono assistiti in maniera continuata e profonda, e anche lo spirito di colui che ha lasciato il pianeta diventa a sua volta una guida importante nel loro cammino. L'espansione, la crescita che avviene a causa dell'esposizione ad un'esperienza così dolorosa e difficile, è enorme. C'è solo amore. Amore infinito.